c'è una stranissima difficoltà a prendere queste iniziative, perché le chiacchiere pesanti, dovete andare nei posti dove volete ottenere certe cose, se no non arriva. Se voi andate, altrimenti per loro non si può fare, questo è quello che lo dico, io, se voi non avete questo libro io vi posso. Quindi dovete andare oggi stesso o domani, se no io blocco il tempo. Questo lo dico, non è colpa vostra, ma è colpa vostra se non andate e non esistete adeguatamente, perché questo libro ci vuole. Magari prendetene uno o due copie e fatene le fotocopie, quelle sono responsabilità vostre, ma dovete averlo dalla prossima volta. Oggi è lunedì, dalla prossima volta. La più pagina, anzi non la più pagina, ma più pagina. Se aspettate in modo generico, vado, e le prime dice no ancora eccetera eccetera, non se ne esce ancora. Andate in biblioteca, intanto il mio quadrillo, fatene delle fotocopie, ecco, poi andate a girare, ecco. Ma vedete, se fosse 300 persone allora la cosa sarebbe più complicata, ma essendo un numero ridotto di persone dovete fare, altrimenti io interrompo l'insegnamento, questo non, perché non sono in condizione di poterlo fare. Io devo considerare le poesie. Bene, detto questo, passiamo a noi, perché non siamo ancora arrivati, fortunatamente, a arrivare. Dunque, noi abbiamo considerato inizialmente un tema di carattere generale, assai importante, cioè quello che è, come dire, in modo specifico dell'arte di un'opera, arte musicale, arte pittorica. E abbiamo identificato questo specifico nell'atmosfera, nel clima dell'opera. L'ultima analisi, o buona sostanza, che dir si voglia, è quello che ci rimane quando poi dell'opera hai identificato i singoli dettagli. È un clima che, aggiungiamo una cosa che forse non si è detta le volte passate, ecco, è un clima che l'autore certamente vuol costruire, ma in realtà il risultato non dipende del tutto dalla sua volontà specifica, cioè si costruisce poi magicamente, anche magicamente, quando l'opera è conclusa. Vi ricordo sempre una frase che vi avevo detto in molte altre occasioni, Borges, molto bella. Borges diceva: nessuno sa veramente quel che gli è stato concesso scrivere. In effetti, quando un autore, eccetera, eccetera, comincia a scrivere, ha un'atmosfera in mente che vuole creare. Punto uno. Ma punto due, non sa però, non può sapere, quale sarà il risultato definitivo, cioè quale sarà l'atmosfera che di fatto alleggerà nell'opera. Questo è estremamente importante. Laonde per cui, quando l'opera è finita, l'autore si trova di fronte all'opera in una strana situazione. Aveva un'intenzione, in vecchia terminologia potremmo dire aveva una poetica, no? Però poi si trova, in questa fase B, a essere il lettore di se stesso. E questo risultato finale, per così dire, presenta normalmente, direi sempre, una forte discrasia rispetto alle intenzioni originali. La poetica, cioè l'intenzione dell'autore, da parte del lettore, del critico, non è possibile non considerarla, ma è doveroso considerare anche qual è il risultato complessivo. Parliamo a livello di atmosfera, che vi dico è la cosa più importante di un testo letterario. Una seconda considerazione che avevamo fatto riguardava l'argomento del nostro lavoro, cioè la poesia di Cavendish, la cui atmosfera è, come dire, fortemente compromessa, o se volete, recente di una contaminazione con la pittura. Con la pittura. Sono poesie che vengono costruite come fossero dei quadri. direi da un punto di vista perfino tipografico, cosa relativamente originale, dico relativamente originale perché in realtà c'erano stati molti esperimenti a partire da Ballarmenzo, ma c'era la poesia inglese, nella poesia americana, o lui. Ma in realtà è un tipo di esperienza, questa di costruire la poesia come un quadro avvalendosi di spazi fotografici, che è abbastanza moderna. Se voi pensate alle grandi poesie romantiche, pensate a Leopardi, cogniamo, o pensate a Hugo, mai a Leopardi o a Victor Hugo sarebbe venuto in mente di usare degli spazi tipografici, cogniamo, per dare la sensazione del silenzio. Mai grande. La scrittura aveva un valore di mezzo molto preciso, molto strumentale, mezzo che serviva a costruire un certo, come si suol dire, messaggio. A proposito di queste contaminazioni, letteratura, scrittura, pittura, abbiamo visto degli esempi dell'Ottocento. E un esempio molto interessante è il sul menzionato Mallarmé, vi ricordate, il cui movimento più celebre, probabilmente, la Famille d'Enfant, mostra delle tracce di contaminazione profonda con l'impressionismo. A partire da un principio base di Mallarmé noi troviamo delle convergenze con l'impressionismo. L'impressionismo, come tutti sapete, l'abbiamo ricordato, vuole rappresentare una cosa, non com'è, ma come appare alla nostra retina quando la guardiamo. Per cui, l'esempio che abbiamo citato, che insomma si fa, che ci dico spesso, un prato in Renoir appare giallo, non perché sia giallo, non perché l'erba del prato sia secca, ma perché ci piove sopra, se così possiamo dire, il sole e quindi il prato sembra giallo. E questo vale naturalmente per qualsiasi altro. Quindi non la cosa com'è, ma come appare. Questo principio dell'impressionismo è lo stesso che aveva teorizzato già in giovane età, e cioè praticamente, tra l'altro, a dimostrazione del fatto che gli avvenimenti culturali spesso hanno una loro strana, singolare, inopinata contemporaneità, aveva teorizzato Mallarmé. Dice Mallarmé, bisogna, l'avete scritto probabilmente, prendere non la chose, ma l'effetto del codice. Questa frase è del 64, ricordate la lettera a uno dei più importanti amici di Mallarmé, che era Henri Cavalis, e pensate che il quadro con cui inizia normalmente, il più famoso, con cui inizia la storia dell'impressionismo francese, e cioè Le Déjeuner sur l'herbe, è del 63. Confluenza, contaminazione, pittura, scrittura. Poi c'è una contaminazione che abbiamo considerato per mostrare che non si tratta solo di contaminazione pittura, scrittura, ma anche di scrittura, letteratura, con altre discipline, con altre, con la musica, il caso di Verlaine, che voleva che la scrittura fosse musica. Abbiamo accennato a una interdipendenza delle arti che in tutto quel periodo si cercava di avere. Scrittura, caso umanistico, scrittura, letteratura, musica, si voleva che fossero, che ognuna prestasse qualcosa all'altra. E noi eravamo arrivati più o meno qui, avevamo accennato a un'esperienza trionfante di interdipendenza delle arti, quale fu quella di Wagner, va bene? Abbiamo detto anche una cosa abbastanza curiosa, divertente, che riguarda Baudelaire, che diceva che si può dipingere facendo un sonetto, cioè tu devi l'impressione, la sensazione, l'emozione, forse la cosa migliore, meno equivoca, è la parola emozione, l'emozione che hai avuto, che hai provato vedendo un quadro, poterla nell'arte di tua competenza, tra la letteratura e quindi la scrittura, poterla immettere. Eravamo arrivati qua, se vi ricordate, mi segue? C'è una cosa però da dire, che questa interdipendenza delle arti tra di loro non esime in realtà l'autore, non impedisce all'autore, musicista, letterario, di rivendicare una forte anche, è una contraddizione, una forte autonomia del proprio mezzo espressivo. Cioè, da una parte c'è questo clima di contatto delle arti, dall'altra parte però il letterato ha a che fare con la scrittura e vuole che sia indipendente. Vi faccio un esempio abbastanza interessante e direi anche clamoroso, proprio tornando al grande Mallarmé. L'après-midi d'un faune venne musicato, ed è una delle sue cose più belle, e se qualcuno non l'avesse mai sentito, ma è davvero appena di sentirlo, da chi? Da Debussy. È molto interessante, e siccome Thierry Malaure è specialista di carta fiata, che io ricorrerò continuamente a paralleli con la musica e la letteratura, perché in realtà non ha senso considerare un'opera letteraria come un'opera pittorica, un'opera musicale, al di là di una contestualità culturale, non solo culturale, badate, ma storica e filosofica. Non ha nessun senso considerare. Allora, Debussy è un autore molto interessante perché rappresenta una scoperta del nuovo, sostanzialmente, una scoperta di nuove possibilità della musica, che noi troveremo, mantenendosi un clima impressionista, che noi troveremo in avanti. Dovete pensare che questi ultimi 30 anni del secolo sono anni decisivi per stabilire la musica moderna. La musica moderna nasce sostanzialmente con la grande esperienza dodecafonica, in cui le note da 7 sono a 12, come sapete, con Schoenberg. Con Schoenberg. E il Pieroli Nero, ma quello non è ancora una dodecafonica, per la verità. Se noi dovessimo dire cosa distingue questo rinnovamento della musica, lo distingue esattamente come nella pittura e direi come nella letteratura, una ricerca di maggiori spazi, di maggiori possibilità sostanzialmente. Ecco, questo è effettivamente qualunque grande genio nel suo campo ha sempre cercato di allargare le proprie possibilità. Uno si chiede sempre se dopo la Clemenza di Tito, dopo il Requiem, dopo il Flauto Magico, Mozart non fosse morto così giovane, cosa avrebbe fatto? In realtà non lo sappiamo. Quindi l'opera di Mozart appare abbastanza simile e compatta, capito? È altresì vero però che un altro grande, come Beethoven, invece ha cambiato profondissimamente i suoi sistemi espressivi. Direi che il Beethoven della Sonata 26, che tutti conoscete, come si chiama? La più celebre sonata. Chiaro di luna, no? Ecco, la sonata 26. Se voi andate all'appassionata vedete già una divaricazione incredibile. Quando dicevano a Beethoven che il chiaro di luna, la conosceva tutti il chiaro di luna, no? Che era bello, lui diceva: ma io non capisco come si possa trovare bello una simile fesseria. Diceva, no? Perché io ho fatto delle cose che sono infinitamente più belle del chiaro di luna. Effettivamente, se voi sentite per la verità, questo è un incidente. E voi sentite chiaro di luna, sentite l'appassionata, vedete che l'elaborazione dell'appassionata è scoppiettante, moderna. Il Chiaro di Luna invece è ancora una musica direi primo romanticismo, ma mi segnalavo Beethoven non tanto per questo passaggio interno, quanto per il fatto che dalle prime cose, prendiamo pure la prima sinfonia, la seconda sinfonia, andando alla nona, no? C'è una forbice straordinaria, quindi ha cercato nuove possibilità espressive. Vi faccio presente che il coro, le voci, nelle sinfonie alla nona, non c'è. Non solo, ma la grande, straordinaria meraviglia è quando, questa è una musica che deve entrare a far parte della vostra cultura, quello che vi sto per dire, e quando ha fatto i suoi famosi quartetti. E questi quartetti sono strabilianti. Perché siamo in un delirio di modernità. E no, non si capisce come il Beethoven romantico, no? Che ha avuto poi la quinta, che ha avuto il suo sia poi, o nel concerto 61, il più bel concerto che Beethoven abbia fatto. Vedete? Ancora assolutamente stupendo, il concerto di 61 di violino orchestra. E alla fine si arriva ai quartetti che sono una musica rivoluzionaria. Quindi è bensì vero che se uno è vissuto abbastanza ha potuto modificare i suoi modelli espressivi. Il preambolo richiederebbe molte altre presentazioni, consentitemene di fare soltanto una piccolissima, no? Questi morivano giovani, capite? Questo è il punto sostanziale, morivano giovanissimi. Il poeta di cui sto per dirvi è morto che aveva 39 anni, si chiamava Giacomo Leopardi. Ebbene, nella sua pur breve vita, Leopardi ha cambiato la sua poesia radicalmente, perché se voi prendete poesia, l'Italia, anche i grandi libri, poi lo spazio di anni, l'arco d'anime e la ginestra, voi vedete che è una poesia totalmente differente. Secca, asciutta, senza alcuna retorica, senza alcuna ricerca di melodia, e che ha un piccolo spazio. Quindi, ogni grande, indipendente, proprio anche indipendente dal suo percorso, se è morto prima non poteva, evidentemente, se è morto dopo ha avuto più chance, ha cercato di variare i propri modelli. Ma qui parliamo di un'altra. Qui parliamo del fatto che da un certo momento in poi nella storia della cultura europea c'è stata un'ansia globale, pittura, musica, letteratura, di ampliamento degli spazi espressivi. Questo ampliamento è avvenuto in due sensi, facendo comunicare tra di loro le arti e, seconda cosa, rivendicando però la propria autonomia. E torno chiudendo e non facendone più di interruzioni da questo punto di vista, ciò cioè al discorso che vi faceva, quando Debussy musicò il Faust, Mallarmé si dimostrò scontento e irritato. E perché, attenzione, perché disse che non si poteva aggiungere musica a della musica, in quanto che la poesia che lui aveva costruito doveva di per sé essere musica. Quindi per essere musica poi è difficile metterci della musica. La posizione è insostenibile, quella di Mallarmé, resta che la Fermata del Fondo è una musica bellissima che dovete, tornando a casa, sentire, insieme con vostro comodo, ai quartetti di Beethoven per capire le cose che sto dicendo. Gli ultimi, i cosiddetti ultimi quartetti di Beethoven. E adesso entriamo nel nostro ambito. Dunque, la poesia di Verdi, sono chiaro finora, la poesia di Verdi è stata influenzata dalla pittura. Quale pittura? Quale movimento pittorico? È stata influenzata dal celeberrimo movimento pittorico che si chiama cubismo. Come nasce questa parola? Anzi meglio, parliamo dei termini cronologici di questo movimento pittorico. il cubismo noi sappiamo abbastanza con precisione quando nasce, anzi con totale precisione quando nasce, nel 1907. Nasce nel 1907 con un quadro, tutti i quadri, credete cos'è. Questo quadro venne fatto da Picasso, unitamente, il quale aveva già attraversato dei periodi molto importanti, come sapete, il periodo blu, il periodo rosa, in cui i quadri avevano una dominanza blu o rosa, ma a un certo momento Picasso, che era abbastanza sdegnato dalla mancanza di verità, questo era il punto sostanziale, della pittura impressionistica, e parlava male, per esempio molto male, del disegno degli impressionisti, Picasso a un certo momento costruisce questo quadro e lavora parallelamente a lui Georges Braque, e costruiscono, sono loro due che iniziano, costruiscono questo movimento pittorico che ha il suo éclat, il suo splendore e la sua interna costruzione tra gli anni 1907 e 1914. Dopo il 14 il cubismo dura ancora, diciamo con opere significative, fino al 25. Però mentre si può sapere il movimento culturale normalmente qual è l'inizio, è sempre abbastanza difficile stabilirne la fine, perché non è che da un momento all'altro uno smette di fare quadri. Però grosso modo dal 7 al 14 abbiamo scoperte strepitose, dal 14 al 25 abbiamo elaborazioni interessanti, ma non ci sono più scoperte importanti, e dopo il cubismo si trascina ancora con varie manifestazioni di epigoni del cubismo, ma sostanzialmente appare lontano dalla sensibilità. Comunque, naturalmente parleremo molto del cubismo, è il nostro argomento. Cosa volete? Il cubismo è un'arte molto difficile che voleva una cosa abbastanza semplice da dirsi. Vi ho parlato della verità, questa è la parola chiave. Allora, il cubismo vuole rappresentare la verità del mondo, espressione un po' enfatica, ma tutt'altro che approssimativa. Vi faccio un esempio perché tutto questo sia chiaro. Voi sapete da chi è stata scoperta nella storia della pittura la prospettiva. Chi era? Chi ha detto Giotto? Dovrebbe essere passato per le armi. È vero. Voi sapete che cos'è la prospettiva? La prospettiva è quella certa cosa per cui un oggetto più lontano tu lo rappresenti più piccolo e l'oggetto vicino lo rappresenti più grande, perché è per ovvi motivi, no? Perché così ha il senso della profondità, no? Il senso della profondità era un fatto molto importante, perché dava l'idea della verità. Ma naturalmente la dava in modo finto. Se mi capitasse di andare in quella bellissima cittadina veneta che è Vicenza, voi vedrete che il teatro olimpico di Vicenza, che sembra enorme, è piccolissimo, solo che con un opportuno gioco di quinte si dà l'idea di una prospettiva accentuatissima. Quindi metti che un metro viene percepito come 5 metri, eh? La prospettiva è una finzione. Le cose indietro sono più piccole, quelle davanti sono più grandi. È una finzione. Ed era proprio questo errore, questo inganno, quello contro cui si accaniva Picasso e i cubisti, il movimento cubista. E l'esempio del cavallo che si faceva è l'esempio più ridere. Se tu prendi un cavallo e vuoi rappresentare il cavallo così, tu le zampe del cavallo, quelle che non sono davanti a te, ma quelle che sono dietro, quella posteriore e quella anteriore, le farai più piccole. Chiaro? Chiaro a tutti questo? Signorina, chiaro? Ma l'obiezione che Picasso faceva era che i cubisti, non Picasso specificatamente, facevano era questa. Ma il cavallo ha delle zampe virtuali nella realtà? Ha due zampe, quelle che stanno dietro, più corte di quelle che stanno davanti? No, evidentemente. E allora perché bisogna fare delle zampe più corte? Ecco l'errore della prospettiva. È un errore in realtà che ha una portata ideologica, l'errore della prospettiva, grossissimo. E già che ci sono, vi voglio dire che la battaglia del cubismo contro i movimenti pittorici precedenti, segnatamente l'impressionismo, è non solo una battaglia artistica, ma è una battaglia ideologica. L'impressionismo, poi torniamo alla prospettiva, rappresentava un mondo così come lo vuole il soggetto che guarda, quindi un mondo tranquillizzante. Se voi fate caso alla sensazione dell'osservatore medio davanti a quadri impressionistici, intanto che a Roma, vedrete che c'è un senso di grande piacevolezza nel viso dei più tonti. Perché si sentono a casa loro. Vorrei un po' approfondire questo concetto del casa loro, no? Con degli esempi un po' magari stravaganti. Mi seguite bene? Chi di voi, ragazze qui presenti, vorrebbe, forse sì, però, vorrebbe fare la velina? Lei sa che cos'è una velina? Lei vorrebbe spogliarsi davanti alle telecamere e fare la velina? Lei, mi auguro. Io ne ho conosciuta una di velina, che era, questo ve l'ho detto qualche volta, la totale idiota sorella di mia allieva, si chiamava e si chiama Flavia Vento, l'ho conosciuta bene, ed era un orrore. Eppure questa ragazza era una ragazza tipo, adesso vanno le bionde, questo è il motivo per cui per esempio quella ragazza si è tinta i capelli in quel modo dietro, vanno le bionde. Mi dispiace, cara Roberta, ma per lei è passato. Si può andare in convento a nascondersi, sarà forse la cosa migliore. Vanno le bionde, le tette, come sapete bene, sono sempre andate. Parliamo, c'è tutta una codificazione per cui la donna interessante normalmente non fa premio sulla bonanza. È un linguaggio crudo, ma che rende l'idea, no? Cioè, se io porto qui, no? Una donna, una velina, con le cose, tutto quanto, eccetera, questa viene guardata e viene accettata. L'osservatore si sente, uno questa espressione, a casa sua. Nel senso che le cose che sono l'osservatore maschile, ma non solo maschile, che sollecitano la sua attenzione sessuale, sono messe a posto. Va bene? Vale anche l'opposto, per gli uomini, naturalmente. Ci sono degli uomini che sono dei tetri, dei prototipi di una fittizia mascolinità. Non so se cito uno, Brad Pitt, no? Ci sono persone che ti fanno sentire a casa loro, a casa loro. Ma c'è qualcosa in queste persone che ti fanno sentire a casa loro di tetramente banale, di artefatto, capito? Non c'è verità. Ci sono delle persone bruttine, maschi o femmine, ma naturalmente con le femmine che il problema del bruttino si conosce, insomma. E che la cui verità non viene apprezzata. Ma è importante la verità di una persona fisica, è importante non meno della sua verità psicologica. Non meno della sua verità psicologica. noi avremmo davvero delle grandi difficoltà a confrontarci con persone che sapessimo chi. Qual è l'errore morale della prospettiva? È che ci rappresenta un mondo in modo finto. Naturalmente questa è un'opinione di Luigi, perché la prospettiva non ha impedito, anzi ha favorito la costruzione di cose assolutamente meravigliose nella storia dell'arte, sia ben chiaro, non è che io sono così. Cioè, il ritiro della Francesca e Raffaella hanno fatto delle cose belle, molto belle. Però c'era questo bisogno ardente di verità, capite? Per cui si diceva la prospettiva è sbagliata. Uno. Due. Così come, in un altro senso, è sbagliato l'impressionismo. Perché sia nel caso della prospettiva, sia nel caso dell'impressionismo, quel che domina è poi il soggetto che guarda, il soggetto che guarda, anche qui nel caso della prospettiva. Va bene? Ma la vita, il mondo, e qui c'è la svolta ideologica, non è fatta di soggetti. Quello che vi so dire è uno dei concetti più intelligenti che avrete sentito in tutto il mondo. Il mondo è fatto di oggetti. Io sono un oggetto. Capite? Come oggetto? Oggetto di che? Voi mi state guardando, quindi io sono un oggetto, ma dirò di più. Io sono un oggetto perché, cosa sono queste che vi sto esibendo? Due mani. Sono mani, come vedete, di una certa, diciamo così, non un'eccessiva lunghezza, sono mani molto normali, ne avete viste tante di mani di questo genere. Mi fate vedere le sue mani. Vedete che insomma, più o meno, è la stessa roba. Ma anch'io le guardo. Anch'io mi guardo, io mi guardo, non per motivi narcisistici, ma perché sono costretto a farlo, molto più di quanto mi guardiate voi. Cioè voi, per così dire, convivete con me pochissimo, per vostra fortuna, ma io convivo con me stesso tutto il giorno, capite? Io mi guardo allo specchio, quindi questa idea dell'oggettualità del mondo è un'idea fondamentale che mette in crisi tutto quello che è nel segno del soggetto, quindi l'impressione di come diceva la prospettiva. Mi pare di essere chiaro, vi dica lei, lei come si chiama? Valerio. Vi dica lei Valerio se questo discorso non è di una chiarezza che fa invidio, dovrebbe a questo punto, caro, Cartesio dovrebbe avere il segno di forse perché io fosse vivo, dovrebbe togliersi il cappello, cioè, bene. Rappresentare quindi le cose non come li si vede, ma come sono. Ma come sono? Naturalmente avremo modo di vedere che cosa fanno i cubisti, ma adesso facciamo un passo. Questo bisogno di verità non nasce comunque come un fungo dal nulla. Non nasce. Come in genere nulla nasce dal nulla. Nil. Io ho due fratelli, uno matematico e l'altro un fisico nucleare, e questo qui lavorava, il maggiore, il fisico, lavorava con Carlo Rubbia, il Nobel, famoso Nobel, mi diceva che le cose che aveva scoperto, parlo di queste cose di cui non la so, che aveva scoperto Rubbia, le ha coperte lui, perché ci ha messo la firma, evidentemente perché ha fatto degli aggiustamenti all'ultimo, ma erano tutte preparate dagli studi precedenti. Quindi non è che improvvisamente Picasso, ha avuto un genio. Cioè, il genio in che cosa consiste? Consiste nel prendere il materiale preesistente e fare il salto in più. Ma il materiale preesistente c'è. Avete capito? Leonardo aveva il materiale preesistente. Senza il disegno di Verrocchio, Leonardo non sarebbe Leonardo. Questo è interno. Torniamo. Chi c'è dietro questo bisogno di verità? C'è un pittore. Questo. Che lavorava inizialmente all'interno del mondo impressionista, ma poi se ne distaccò. Che cosa diceva Cézanne? Cézanne diceva anzitutto questo, diceva che nell'impressionismo le forme dunque appaiono disfatte, disfatte per l'appunto perché sono rappresentate così come appaiono sulla tela. Ma diceva questo, che le forme non sono in realtà disfatte. Il prato famoso che viene rappresentato in quel bizzarro modo giallo, perché c'è il sole sopra, non è giallo. E allora perché bisogna dipingere di giallo? Questo è. E allora il lavoro di Cézanne consiste nel dire no al disfacimento dei contorni delle cose e sì all'esaltazione delle cose stesse. Delle cose stesse, come stiamo per dire tra poco, ed esaltando le cose stesse viene fuori un concetto che è quello di massa, che è quello di massa. Facciamo un esempio erotico. Levate l'esempio erotico. Allora, se noi fossimo all'interno del Dolce Stilinovo, ma siamo molto lontani dal Dolce Stilinovo, noi potremmo immaginare una sorta di approccio, diciamo così, erotico, sessuale, di questo genere, in cui la persona viene, per così dire, trasfigurata nei suoi contorni dalla spinta del mio desiderio, no? Allora, io nel rapporto amoroso vedrei una sorta di baluginica bene, però è difficile parlare bene con me, guardi qui in questo piano lei potrà una sorta di baluginio luminoso, no? Perché io non vedo più la persona come è realmente, è chiaro, come ma la vedo, ecco, poi ovviamente qui inizieremo tra poco a tirarla in ballo, no? con calma lei ha ragione. Cioè non importa vederne i contorni perché siamo molto innamorati, allora quasi un luogo comune, ma mica poi troppo, che in fondo l'innamorato non vede i contorni perfettamente della persona. Cioè se dici all'innamorato che cosa ama dell'oggetto d'amore, l'innamorato gli dici ami gli occhi, sì, ma l'innamorato tenderà sostanzialmente a slittare, perché se uno comincia a dirgli ah sì, hai studiato bene le palpebre di quegli occhi e le ciglia quanto sono lunghe, adeguatamente lunghe, dopo un po' di questo interrogatorio l'innamorato sarà seccato e dirà ma il complesso, dedichiamoci, dice l'interrogatore, dedichiamoci al naso, è perfetto questo naso. Anzi, l'innamorato corre il rischio in un interrogatorio di questo genere rispondendo di vedersi crollare, perché magari il naso della bella apparirà o alla francese con la puntina di un obito assoluto o con delle selle che richiameranno una catena montuosa, insomma, no? Le guance dovrebbero essere sottili, ma se le guance sono tondeggianti, insomma, andarci piano. Però nell'atto amoroso tutto questo è più bello, tutto questo viene dimenticato, la parte della donna e la parte dell'uomo. A vantaggio del concetto di massa, io qui non posso essere più esplicito perché andrei veramente in un discorso indecente che non vorrei sottoporre alla vostra delicata sensibilità, ma se mi intendete, se uno si accosta in modo impressionistico all'oggetto d'amore nell'atto del coito, è un bel guaio, eh? Uno ha bisogno di sentire, per così dire, la persona che si massifica, uomo o donna che sia, sotto le sue braccia. Più di così non parlo, eh? Ha capito, signorina? Questo massificarsi è dovuto indubbiamente a una spinta sessuale. Ma se fate caso, questo massificarsi è dovuto anche, e anche, scusate, una scoperta di verità. Noi non siamo dei contorni trattagliati colti dallo sguardo, ma siamo delle persone di carne ed ossa. E anzi, quando uno riesce ad arrivare a quest'idea che l'altro è in carne ed ossa, ha fatto un grosso passo in avanti, perché è arrivato più vicino alla verità della persona. Mi seguite? Una delle grandi prove che si fanno per fare ancora esempi di questo genere, una volta si usava, si usava avere rapporti dopo il matrimonio e non prima, c'era tutta l'educazione, adesso invece si hanno 3 anni, si hanno veramente 3-4 anni, ma appena uno con le genere. E accanto alla gioia naturalmente di questo rapporto agognato, ma al tempo stesso anche alla delusione che potevano esserci, c'era la scoperta della bruttezza della vita comune. La vita comune era pesantissima, era fatta di bollette da pagare, era fatta di letti da rifare, di calzini da lavare, eccetera eccetera. Cosa mancava in questa visione, come dire, idealistica e impressionistica dell'esistenza? Mancava il senso della vita reale. Mi seguite? E infatti, se voi guardate i quadri impressionisti, ancorché rappresentino magari degli ubriachi, delle persone che hanno bevuto, che sono in condizioni malmesse proprio sostanzialmente, voi vedrete sempre una sorta di idealizzazione. Quindi il concetto di massa rappresenta ideologicamente una grossa acquisizione, no? Una grossa. E Cézanne, esaltando l'oggetto e deprecando il disfacimento della forma, mette in evidenza tutto questo. E prima di proseguire, vediamo 3 quadri in cui tutto questo appare molto bene. Ho questo bellissimo album, che purtroppo è uno solo, e quindi dobbiamo vederlo. Però, quando vi dico non il contorno ma la massa, e vi faccio vedere la strada della Provenza, tutti capite che cosa voglio dire. Guardate questo quadro, lo vedete tutti? Lo vedete tutti, anche se lontano lo vedete? Se vedete questo quadro, c'è un albero, c'è una macchia di bosco, c'è un prato, guardate questo stradone che viene su. Guardate questo stradone che viene su. Voi vedete che Cézanne non ha alcuna cura di rappresentare i contorni dello stradone medesimo, ma vuole rappresentare questo linguone. È una specie di lingua questa strada. E vuole rappresentare nella sua verità, senza edulcorazioni, ma anche nella sua massificazione. È una massa. Adesso prendiamo questo altro quadro, la pagina qui 120. Questo quadro, che avevo cercato una volta di fare una fotografia da giovane, è un quadro assolutamente tipico impressionista, tipico. Ma guardate le differenze. Si chiama Il Ponte di Nancy. Ditemi se va bene come. Lo vedete? Lo vedete? Allora, guardate questo quadro come è messo, descriviamolo. Qui c'è uno specchio d'acqua, possiamo immaginare che sia, non mi interessa, che sia uno stagno, un fiumiciato, no? Come vedete è verde, c'è il riflesso naturalmente degli acqua. Guardate che c'è il ponticello, c'è una sorta di salita al ponticello, poi c'è la discesa evidentemente. Che cosa c'è di diverso in questo quadro rispetto a tanti quadri impressionisti che noi conosciamo? Ve lo dico io. Questo quadro ci viene addosso con un senso, per l'appunto, della massa, non rappresentando il ponte così come ci appare la rete, ma direi proprio, se la parola non fosse abusata, cercando di violentare lo sguardo dell'osservatore. Quello che importa è la verità di quello che è rappresentato. prendiamo un altro quadro che è questo. Questo è uno dei quadri più celebri, più straordinari di Cézanne. Ci siamo? Adesso io passo, questo è veramente importante che lo vediate bene, da vicino. Ci siamo? Lo vedete? Adesso passo di lì, eh? Lo vedete? Ecco. Andiamo qua. Guardate ragazzi. Allora, questo è un posto famosissimo per Cézanne, che fa parte della vostra cultura, dovete assolutamente sapere queste cose, no? Lui aveva comprato una casetta, non so bene se l'ha comprato o affittato, una casetta sul Golfo di Martire. E questa zona si chiama l'Estac, lui l'ha rappresentata spesso. Adesso guardate la caratteristica di questo fantastico quadro. Io ce l'avete, vedo naturalmente, perché l'opera d'arte nella sua riproduzione, diceva Benjamin, poi in realtà ha perso la sua aura, è un libro bellissimo, l'opera d'arte all'epoca della sua riproducibilità tecnica, Walter Benjamin, libro importante da leggere per la vostra cultura di base, libro geniale. Allora immaginiamo, guardiamo questo quadro e vediamo le caratteristiche. Guardate ragazzi il mare come si presenta. Il mare si comporta più o meno come quella strada che dicevamo prima. La strada ti veniva addosso, ti dava un cazzotto negli occhi. Guardate questo marone che ti viene addosso. D'altra parte è interessante notare che il paesaggio dello sfondo, cioè l'altra parte del golfo, non è lontano, Non è, per così dire, ridotta a piccoli tratti, per effetto della prospettiva, ma è esattamente trattata come la parte vicina, va bene? Aggiungerò di più, che la parte lontana, se fate caso, è più chiara nei suoi dettagli di quanto sia la parte vicina, che non ha quasi dettagli. Ora, uno si chiede, ma com'è possibile? Gli stava vicino con questo paesaggio, con tutte le sue case, ma perché non l'ha rappresentato in modo più preciso? E la risposta è questa, perché l'occhio non ha importanza, quello che importa è la verità delle cose. E credo che dobbiamo lasciare e venerdì, ricordatevi, ci vediamo giovedì. Thank you.